Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il diario di Anna Frank di Francis Goodrich e Albert Hackett, traduzione Alessandra Serra e Paolo Collo, con in ordine di apparizione Antonio Salines, Eleonora Tosto, Raffaella Alterio, Francesca Bianco, Veronica Benassi, Vinicio Argirò, Tonino Tosto, Susi Sergiacomo, Fabrizio Bordignon, Roberto Baldassarri. Regia Carlo Emilio Lerici, aiuto regia Martina Gatto. Una coproduzione Teatro Belli, compagnia Mauri Sturno. Signor Frank, tutto bene? Sì, tutto bene, Mip. Sono le 6 passate, in ufficio sono già andati via tutti. Non resti qui, signor Frank. Non ha senso torturarsi in questo modo. Sono venuto per salutare. Me ne vado. Che significa? Dove vuole andare? Non lo so. Non ho ancora deciso. Ma non può andarsene. Amsterdam è la sua città. È la sua casa. Ci sono molte cose da fare ora che la guerra è finita. Io non posso rimanere qui ad Amsterdam. Troppi ricordi. La casa in cui vivevamo, la scuola, persino l'organetto che suona per strada. No, io non sono più quello di una volta. Mi scusi, non dovrei parlare così. Dopo tutto quello che ha fatto per noi, i sacrifici. Nessun sacrificio. Noi non possiamo certo parlare di sacrifici. So quello che ha fatto lei e il signor Kraler per noi. Non lo potrò mai dimenticare per tutta la vita. Sì, andiamo, Mip. Signor Frank, aspetti. Eh? Ci sono delle carte. Le abbiamo ritrovate per terra dopo che siete andati via. Le bruci. Ma, signor Frank, ci sono delle lettere, degli appunti. Bruci tutto. Anche questo. Il diario di Anne. Lunedì 6 luglio 1942. Ma è mai possibile? Mit, sono passati solo 3 anni. Caro diario, siccome io e te dobbiamo diventare amici, ti parlerò un po' di me. Mi chiamo Anne Frank. Ho 13 anni. Sono nata a Francoforte il 12 giugno 1929. E siccome la mia famiglia è ebrea, quando Hitler è andato al potere, siamo emigrati in Olanda. Qui mio padre ha messo su un commercio di spezie. E poi... è arrivata la guerra. 10 maggio 1940 Hitler ha invaso l'Olanda. Con l'arrivo dei tedeschi le cose cominciarono ad andare molto male per noi ebrei. Non potevi fare questo, non potevi fare quello. Hanno proibito a mio padre tutte le attività. E noi non potevamo più salire sui tram. Non potevamo più andare al cinema e al teatro. Non dovevamo farci vedere per strada dopo le 8 di sera. Non potevamo neppure stare seduti in giardino. Ci hanno sequestrato tutto. Niente spiaggia, niente piscina. Insomma, dovevamo farci vedere il meno possibile. io e mia sorella Margot non potevamo più frequentare la scuola olandese e ci hanno fatto cucire una stella gialla, bene in vista. Però noi bambini sapevamo sempre come divertirci. Ieri papà mi ha detto che dovevamo nasconderci, ma non mi ha spiegato dove. Stamattina alle 5 la mamma mi ha svegliata e mi ha detto che dovevo vestirmi il più in fretta che potevo. Dovevo mettere addosso più cose che potevo. Avremmo dato troppo nell'occhio con le valigie per strada. Solo dopo mi hanno detto dove eravamo diretti. Nell'edificio dove lavora papà. Sì, il nostro nascondiglio si trova proprio qui, dietro il suo ufficio, su per le scale. Papà! Sì, Anne. Signor Frank, grazie a Dio siete arrivati. Grazie. Anne! Mip! Mip! Margot! Signora Frank! Oh, Vicca! Sarete esauste! Mi spiace ci sia ancora un po' di disordine. Ma no, lei ha fatto fin troppo per noi, grazie. E poi abbiamo tanto tempo per mettere in ordine. Peter, vieni su. Ah, oh, ecco il primo arrivato. Benvenuto, Peter. Ragazzi, lui è Peter Van Damme. Peter, loro sono le mie figlie, Anne. Ciao. E Margot. Ciao. Mia moglie la conosci, no? Signora Frank. Oh, Peter, scusa, è che sono ancora un po' confusa. Sono contenta, caro, che tu sia qui con noi. Beh, cos'hai? I miei genitori. Beh? Erano dietro di me. Arriveranno. Ho paura che li abbiano presi. Oh, ma no, tesoro, vedrai, non è successo nulla. Tra poco arriveranno. Oh, ho capito. Tu devi essere un po' ansioso come me, vero? Sì, la mamma si preoccupa sempre per tutto. Ecco che ti avevo detto. E ora ci siamo tutti. Abbiamo dovuto fare un giro più lungo perché era pieno di camicie verdi. Benvenuto, signor Van Damme. Signora Van Damme, allora, loro sono le mie ragazze, mia moglie la conosce. Signori e signori, però scusate, dobbiamo sbrigarci, tra mezz'ora saranno qui gli impiegati. Quanto fastidio vi stiamo dando, è vero, signor? Non si preoccupi. Nessun fastidio, signor Frank, che non ci piacciono i nazisti, non ci piacciono affatto. Adesso devo scappare a ritirare le vostre tessere di razionamento. Tessere? Ma se vedono i nostri nomi su quei documenti, sapranno come trovarci. Non temete, i vostri nomi non ci saranno. Tornerò su più tardi e mi raccomando, fate ogni giorno una lista di tutto ciò che vi occorre e io cercherò di procurarvelo. A più tardi. Grazie. A più tardi. Ciao, grazie. Arrivederci. Grazie di tutto. Non capisco, dunque sono tessere falsificate. Ma Otto, noi non abbiamo mai fatto nulla di illegale, vero? E tesoro, da questo momento non possiamo più vivere secondo le regole. Sì, non si preoccupi, signora Frank, non è mercato nero, è mercato bianco, come lo chiamiamo noi, a soccorso di tutta la povera gente che ogni giorno è costretta a nascondersi ad Amsterdam. La vostra casa? Sì, sta facendo tardi, io devo andare giù prima che arrivino gli impiegati. Allora, signora Frank, qui ci sono le provviste. Ascoltatemi tutti un attimo, io, Mipo, tutte e due assieme, verremo ogni giorno a portarvi da mangiare, a vedere se vi manca qualcosa e a portarvi le ultime notizie. Come avete visto, davanti all'entrata c'è una libreria. Io domani per sicurezza metterò anche un chiavistello, così potrete chiudervi per bene. Però mi raccomando, aprite soltanto al segnale convenuto. E mi scusi, signor Frank, lo dice lei a loro del rumore? Ah, sì, glielo dico. Benissimo, io. Allora io tornerò su quando se ne saranno andati tutti. A più tardi, allora. Oh, signor Frank, non so proprio come potremmo mai ringraziarlo. Non si preoccupi. Io non avrei mai immaginato di vedere un uomo come il signor Frank costretto a nascondersi. A più tardi. Arrivederci. Otto, scusa, ma che cosa intendeva il signor Kraler con la questione del silenzio? Beh, intanto cominciamo a toglierci questi vestiti. È un miracolo che così conciati non ci abbiano arrestati per strada. Petronella in pelliccia in piena estate e con una cappelliera. E a che cosa le serve un altro cappello? Ma non è un cappello. Guarda. Non potrei proprio fare a meno del mio vaso da notte. Beh, adesso veniamo al rumore, eh? Sì. Allora, quando gli impiegati sono sotto qua in ufficio, dobbiamo osservare il più assoluto silenzio. Gli impiegati entrano alle 8:30, escono alle 5:30 circa, quindi per sicurezza. Dalle 8 alle 6 non possiamo muoverci, se non in caso di estrema necessità e senza scarpe, con le calze. Poi dobbiamo parlare a bassa voce, così non possiamo fare scorrere l'acqua, né usare il lavatoio, non possiamo neanche usare il gabinetto perché i tubi scorrono di sotto e arrivano fino al laboratorio e potrebbero sentirci. Ma un gabinetto per tutti? E niente immondizia, assolutamente niente. Nulla che possa rivelare la nostra presenza, neanche una buccia di patata. Bruceremo tutto nella stufa di notte. Queste sono le regole se vogliamo sopravvivere, finché tutto sarà finito. Certo. Finché tutto questo sarà finito, speriamo. Dopo le 6 possiamo muoverci, parlare, ridere, scherzare, fare giochi, i giochi che piacciono tanto alla nostra Margot. E facciamo conto di essere a casa nostra. Questa sarà la nostra stanza comune dove mangeremo, leggeremo. Insomma, facciamo conto di essere tutti un'unica grande famiglia. Ah, bene, ora però è meglio che ognuno di noi vada nella propria stanza. Allora, il signor Verrani e la signora Van Damme saranno di sopra nella camera grande, Peter in quella piccola, con lucernario. Ma voi dove dormirete? Questa sarà anche la nostra camera da letto. Ah, signor Frank, non vi ringrazieremo mai abbastanza. Non sa quanto ha fatto suo marito per me. Quando sono arrivato in questo paese non conoscevo una parola di olandese. E sono io che non saprò mai come sdebitarmi. E vuole che l'aiuto? No, grazie. Grazie. Dio mio, che caldo. Che caldo. Togli la pelliccia e sarai più fresca. Eddie, sei stanca, non è chiuso occhio tutta la notte. E anche Marco. Io invece, papà, ho dormito benissimo. Ah, sì. Anche se sapevo che era l'ultima notte nel mio letto. Bene, allora tu mi aiuterai a mettere in ordine questa stanza, va bene? Ecco, questa è la camera vostra. Intanto riposatevi per il momento in questa camera. Sì. Otto, no, veramente, non sono stanca. Posso benissimo aiutarti a sistemare tutto quanto. Oh, poi che stupida, mi sono proprio dimenticata di dare ad Anne il suo bicchiere di latte. Glielo do io. Peter, Anne, toglietevi le scarpe così non ve lo dimenticate. Vieni. Anne, tesoro, sei sicura di non essere stanca? No, mamma, sto benissimo. Allora, senti, fammi un favore, prendi le provviste e mettile là, nell'armadio. Sì. Peter, come si chiama il tuo gatto? Mushi. Ehi, Mushi. Mushi. Lo sai che io amo i gatti? Sì, anche io ho una gattina adorabile. Però non me l'hanno fatta portare. Allora io le ho lasciato una ciotola con del cibo e un biglietto per i vicini pregando di occuparsi di lei. Mi mancherà tantissimo. Ma ascolta, ma è un lui o una lei? È un maschio. E non gli piacciono gli estranei. Ma che fai? La tolgo. Ma sei impazzito? Se esci senza la stella ti arresteranno. E chi può uscire? Giusto, hai ragione. Adesso non ci serve più. Chissà che cosa penseranno i nostri amici quando non ci vedranno arrivare oggi. Beh, io non dovevo vedere nessuno. Beh, io invece sì. Dovevo incontrarmi con Jopi questo pomeriggio. Dovevo andare a giocare a ping pong a casa sua. Tu la conosci, Jopi Deval? No. Jopi? Ma come no? Jopi è la mia migliore amica. Chissà che cosa farà quando non risponderò al telefono. Ma magari verrà a casa nostra. E chissà che cosa penserà. Sai, noi abbiamo lasciato tutto come se fossimo partiti all'improvviso. Abbiamo messo tutti i piatti della colazione lì nell'acquaio. E poi tutti i letti disfatti. E invece, Annelie Glosser la conosci? Mai sentita. Però di me hai sentito parlare. Beh, mio padre è il socio di tuo padre. Hai Hai sentito parlare di me? Hai sentito parlare di me? Sono famosa! Ma guarda qui, Peter. C'è ancora. Ti ricordi all'inizio? Facevano tutti finta di guardare da un'altra parte e poi finivano sempre per guardare qui. È come se ci avessero marchiato. Anne, non dare fastidio a Peter. E dai papà che non gli do fastidio. Sei contento, Peter? Stasera sarà la nostra prima cena insieme. Grazie, signor Frank. È un bravo ragazzo, Peter? Beh, è timido, vero? No, vedrai che ti piacerà. Per forza, è l'unico ragazzo che vedrò per non so quanti mesi. Guarda un po' cosa ti ho portato. Che cosa? Che cosa fa vedere, papà? Aspetta, fa vedere. Papà, ma questi sono i miei attori preferiti. Te ne sei ricordato? E questo è il mio diario. Oh, grazie, papà. Aspetta che mi sono dimenticata le matite. No, Anne, no. Ma non c'è nessuno di sotto a quest'ora. Non importa, Anne, tu non devi mai oltrepassare quella porta. Lo capisci? Ogni piccolo errore può costarci la vita. Lo so. Non dimenticarlo. Sì, lo so, sarà difficile, ma ricordati che non ci saranno né pareti, né botole, né chiavistelli che potranno condizionare i tuoi pensieri. Mitte ci porterà dei libri, leggeremo storia, mitologia, poesia, e tu potrai anche scrivere. Papà, ma questa è la tua penna! Da oggi sarà la tua penna. Grazie, papà! Io devo prendere un po' d'acqua per Mushi prima delle 8. Presto però, eh? Grazie. Fermo. Venerdì 25 agosto 1942. Credo di doverti dire cosa si prova ad essere nascosti. Beh, la verità è che non lo so neppure io. So solo che mi sembra strano non poter andare fuori a respirare un po' d'aria fresca, non poter correre, non poter gridare e non poter saltare. È il silenzio della notte quello che mi fa più paura. Ogni volta che sento uno scricchiolio in casa o dei passi per la strada, sono sicura che stanno venendo a prenderci. Di giorno però è meglio, almeno ci sono Mip e il signor Kraler di sotto in ufficio. Ieri ho chiesto a papà che cosa succederebbe se i nazisti scoprissero che ci aiutano a nasconderci. Papà dice che subirebbero il nostro stesso destino. Ma te ne rendi conto? E loro, pur sapendolo, ogni volta che vengono qui sono allegri, tranquilli, come se non ci fosse nulla al mondo che possa preoccuparli. L'ultimo impiegato è uscito. Oh! Anne, non ce la facevi proprio a stare ferma, eh? Vado io per prima al gabinetto. La scuola è finita, Anne e Margo, datemi i compiti che ve li correggo. Tieni, papà. Eccoli. Margo. Ma dove sono? Avete visto le mie scarpe? Quali scarpe? Le hai prese tu, vero? Non so di che cosa parli. Te ne pentirai, vieni qui. Ah sì, davvero? Papà! Ah, basta di cercare questo. Papà, ti sto aspettando. Ora ti prendo, no, fai! Lasciami! Papà, basta! Ma dove vai? Vieni a parlare con me. Non sono capace. Ma ti insegno io. Devo dar da mangiare a Mushi. Ma dai, vengo io. Non vuole nessuno quando mangia. Dai, ti prego. No! Anne! Anne, tesoro, devi smettere di giocare in questo modo con Peter. Non sta bene, non si fa, capito? Ma chi se ne importa se non sta bene? Anne, tu ti lamenti quando ti tratto come una bambina e quando ti tratto come un'adulta ti lamenti lo stesso. Mamma, ma io stavo solo giocando E poi non capisco proprio che cos'ha quello lì. Ma niente, tesoro, semplicemente Peter non è abituato a frequentare delle ragazzine. Devi dargli un po' di tempo, tutto qua. Ma quanto gliene serve ancora? Devi avere pazienza. Margot, vieni tu a ballare con me. No, devo aiutare per la cena. E dai, che se non ci esercitiamo, ci dimentichiamo come si fa. Se il padre lo trova in camera sua a giocare col gatto senza aver fatto i compiti, lo riempie di botte. Anne, tesoro, puoi andare a dirgli di scendere? Va bene. Papà, Peter! Peter! Che c'è? La mamma vuole che esci di lì. Sto dando da mangiare a Mushi. Peter, lo sai cosa dice tuo padre? Se vuoi gli finisco di dare da mangiare io. Non voglio che entri qui dentro. Peter! Va bene, va bene. Dagli da mangiare, ma poi esci subito dalla mia stanza, hai capito bene? Sì, ma Peter, è questo il modo di rivolgersi ad una ragazza? Mamma, per favore! Ma è diventato tutto rosso, ma non c'è da vergognarsi ad avere un'amichetta? Ma che cosa dici? Ha solo 13 anni! E allora? Tu ne hai 16? Va benissimo! Tuo padre ha 10 anni più di me! L'avverto, signor Frank, se questa guerra durerà a lungo, diventeremo parenti. Oh, una smagliatura. Buonasera! Buonasera, vorrei tanto restare per cena, sì, però ho un amico che mi aspetta di sopra, il mio amico Mushi, Mushi il gatto. Beh, c'è chi dice che ci assomigliamo, sì, però lui ha dei baffi lunghissimi, mentre io ho solo un po' di peluria, ma spero che presto, oh sì, presto... E va bene, signorina qua qua! Peter. Ah, so tutto su di te. So che chiacchieravi così tanto in classe che ti chiamavano signorina qua qua. So anche che il professor Smither ti ha fatto scrivere un tema dal titolo Qua qua, disse la signorina qua qua. Ah, sì, bene, allora vai avanti. Dillo che il mio tema era scritto così bene che l'hanno letto davanti a tutta la classe e poi anche davanti a tutte le altre. Qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua più antipatico che abbia mai conosciuto. Brava, brava Anne, diglielo. Ma con tutti i ragazzi che ci sono al mondo, proprio io dovevo finire rinchiusa con un... Qua qua qua qua qua qua qua qua qua. E d'ora in poi, guai a te se entri nella mia stanza. Smettila di fare la dispettosa! Piantala, hai capito? Pianta! E Anne, basta! Anne, in storia e in latino sei stata bravissima. E in algebra? Beh, io e te non siamo portati per l'algebra, sai? E io come sono andata? Beh, tu nel latino devi usare il congiuntivo. Ricordatelo, però se sta brava anche tu, brava. Ora controllo. E Mip? Non è ancora arrivata? Gli impiegati sono andati via da poco. Peter? Al gabinetto. E cosa c'è da mangiare oggi? Fagioli. Sì, fagioli. Ancora. Oh, sì, ancora. Questa è la sagra del fagiolo. Fagioli in umido, fagioli bolliti, fagioli con filo e fagioli... senza filo! Ti ho visto, sai, che giocavi col gatto, eh? Ma no, no, è stato qua! È stato a studiare tutto il pomeriggio! Signora Vandanno, Posso provare la sua pelliccia? No, tesoro, non toccare la pelliccia che si rovina, non si fa. Provala pure, no. Ma fai attenzione. Me l'ha regalata mio padre un anno prima di morire. Lui comprava sempre solo il meglio del meglio. Signora Van Damme, ma lei ha avuto molti corteggiatori prima di sposare suo marito. Anne, tesoro, ma non fare domande indiscrete, non sta bene, dai. Ma no, non mi dà fastidio. Beh, noi avevamo una casa sempre piena di giovanotti. Mi ricordo che uno è stato... Oddio, ricomincia, mi ricordo. Non sto parlando con te. Ti dicevo, in estate prendemmo una casa grandissima nell'Inverso. I ragazzi ci ronzavano intorno come api sul miele. Mio padre, che vuoi, era un po' preoccupato con tutti quei giovanotti e un giorno mi disse: se qualcuno si comporta da sfacciato, tu devi dirgli: si ricordi, signor tal dei cani, si ricordi sempre che io sono una signora. Si ricordi, signor tal dei tali, si ricordi sempre che io sono una signora. Sentite, Mip deve aver acceso la radio. Cosa sei? Hai finito tu col francese? No. Dovresti vergognarti, guarda. Lo so, sono un caso disperato. E allora perché insistere? Ma tu non sei un caso disperato, non dire sciocchezze. È che tu non hai nessuno che possa aiutarti, come invece hanno le ragazze. Magari potrebbe dargli una mano lei, signor Frank. Ma no, suo padre è più bravo di me, sicuramente. No. Tanto non mi dà retta! Beh, che ne dici allora, Peter? Vogliamo dare vita ad una classe mista? Ma lei è un angelo, un vero angelo, signor Frank! Ah, ma perché non l'ho conosciuta prima di incontrare quello là? Beh, allora vediamo a che punto sei arrivato. Andiamo nella tua cameretta, Pet. Bravo, Pet. E mi raccomando, fai attenzione ai consigli del signor Frank. È un uomo molto colto. Shh, sento le voci di un uomo. Tu, non ti sembra che si stia già abbastanza stretti qua dentro per stare sdraiata in questo modo qua? Se fumassi di meno non saresti sempre così di cattivo umore. Ma mi vedi che sto fumando forse io. Non te le sarei già fumate tutte allora. Un pacchetto, soltanto un pacchetto, mi quella puntata un pacchetto. È orrendo, potresti approfittarne per smettere. Piantala. No, ti stai fumando tutti i nostri soldi, lo capisci devi o no? Devi stare zitta. E tu cos'hai da guardare? No, è che io non avevo mai visto dei grandi litigare così. Io pensavo che solamente i bambini litigano e che poi da grandi smettono. Questo non è un litigio, è una discussione. E io non ho mai visto una bambina così maleducata. Io? Sì. Maleducata? Mamma, ma come fate? Anne, tesoro, vai a prendere il mio lavoramaglia, là nell'armadietto di sotto. Sì. Ah, Margot, ci dobbiamo ricordare di chiedere a Mip di portarci dell'altra lana, l'ho finita. Certo, dell'altra lana, io ho bisogno di... Porcine, sì. Sapone, le devo restituire un libro, ho la lista. Mip, mi potresti portare un po' di amido? Mip, mi potresti portare un po' di tè? Mip, mi potresti portare dei biscotti? Mip, potresti portare i miei capelli a fargli dare una spuntatina dal barbiere? Mamma, ma io mi domando, ma come fa Mip ad avere una vita privata con tutte le cose che le chiediamo noi? Ma è gentile. Mamma, ma tu lo sai che Mip è fidanzata. Lo so. E il suo fidanzato si chiama Dirk e lei è pazza di lui, sì, però è terrorizzata perché ha paura che un giorno o l'altro i nazisti lo prendano e lo portino in Germania a lavorare in quelle fabbriche di guerra. Sì, mi ha detto che adesso fanno così con i giovani olandesi. Ma perché non te ne stai zitta 5 minuti? 5! Anne, per favore, vai in cucina a bere il tuo bicchiere di latte, grazie. Parla! E chiacchiera! Anne, ubbidisci! Mi sorprendo che ancora non ci abbiano scoperti ed uccisi! Ma dico io, perché tu vuoi stare sempre al centro dell'attenzione? Perché non fai come tua sorella Margot, che se ne sta lì, bella, tranquilla, al posto suo? Il guaio lo sai qual è? È che tu sei una bambina viziata e ti ci vorrebbe una bella sculacciata come una volta. Si ricordi, signor tal dei tali, si ricordi sempre che io sono una signora. Ma adesso fai la brava! Fai la brava, Non posso! Non posso. Perché io diventerò famosa. Sei famosa. Sì, vede, io diventerò famosa E andrò a Parigi. A Parigi, sì. Sì, io diventerò una scrittrice. Scrittrice. No, mamma, io diventerò una cantante. No. Diventerò una ballerina. Sì, mamma, una ballerina. Papara, papà. Papà, papà. Papà, papà. Papà, papà. La mia! La pelliccia! La mia pelliccia! No, ma guarda, no, guarda! Ma tanto a te che ti importa? Ma lo sai quanto costa? E lo sai! E guardala adesso! Ti ammazzerei! Petronella, Petronella! Stai calma, è solo una bambina maleducata, su! Anne, Anne, devi smettere di comportarti in questo modo! Mamma, è un errore, può capitare a tutti! No, tesoro, non è solo per la pelliccia, ma per come rispondi, devi smetterla! Loro sono nostri ospiti e noi dobbiamo essere gentili con loro, lo capisci? Lo so, tesoro, stiamo vivendo una situazione molto difficile in questo momento, ma dobbiamo imparare a controllarci, lo vuoi capire? Hai mai sentito tua sorella Margot discutere con loro? Beh, certo, Margot è perfetta. No, io non sono perfetta. Sì, che lo sei. Ma no, Margot non è perfetta. Margot è solo gentile, mantiene le distanze, non dà troppa confidenza e loro la rispettano. Ma una volta in vita tua non puoi comportarti come tua sorella? Beh, così mi mettono sotto i piedi come fanno con lei. Nessuno mi mette sotto i piedi. Sì che lo fanno, anzi ti ci passano proprio sopra. No, guarda che la mia paura non è che ti mettano i piedi in testa, ma la mia paura è esattamente il contrario. Ma non puoi imparare a controllarti, ma cosa ti succede? Guarda Anne, che sei io da bambina. Alla tua età mi fossi permessa di parlare a mia madre come tu stai parlando con me adesso, sai cosa sarebbe successo? Mamma. No, mamma, quello che vuoi tu, mamma. Mamma, i tempi sono cambiati. Lo so. Io non ho voglia di fare tutto quello che fa lei. No, guarda che Margot non è che fa Margot, tutto bene. Margot, sapete dire solamente questo. Ma come brava Margot. Ma perché tu non sei come Margot? Non esagerare adesso. Hai sentito? Voi ce l'avete tutti con me. Io sono la pecora nera della famiglia. No, tesoro. E tu, mamma, sei peggio di tutti. Anne, per favore, ma la vuoi smettere, per favore? Non posso andare avanti in questo modo, non ce la faccio più. È meglio che metta la pentola della minestra sul fuoco, nel caso qualcuno in questa casa abbia ancora voglia di mangiare. Margot, per favore, metti questo pane sul tavolo, grazie. Sì. Ma non posso continuare in questo modo, non posso. Io non posso dire una sola parola a tua sorella che lei si ribella. Mamma, ma lo sai com'è fatta, Anne? Adesso torna a ridere e scherzare come prima, non è niente. Ma no, tesoro, ma non è soltanto questo, è per tutto il resto. Per tutto il resto. Io gliel'avevo detto, sai, a tuo padre, che non avrebbe funzionato con quelli lì. Ma lui niente. Ha voluto ospitarli lo stesso. Sai cosa mi ha detto? Edith, glielo devo. Sì, glielo devo. Adesso si renderà conto, no? Si renderà conto che avevo ragione io con tutte queste urla, questo chiato, queste discussioni. Mamma! No, tesoro, scusami. Io non riesco a ricordarmi come ci si comporta. Ah, è il segnale, sì. Credo che sia Mipa. Sì, ferma sì, qua, sì. Vado io. Sì. La nostra Mip non si dimentica mai di noi, avrai il tuo libro, signor Frank. Che bello vedersi, Mip. Com'è fuori? È una bella serata, tieni il tuo libro, Anne. Grazie. Grazie mille. Questo devi restituire. Bonsoir, mademoiselle. Patate. Quando arriva Mip in questa casa entra il sole. Mip, è successo qualcosa di nuovo oggi in ufficio? Aspetta, ti racconterò tutto. Dai, raccontami tutto, dai. Ma non volete fermarvi a mangiare qualcosa con noi? No, grazie, non possiamo. Abbiamo qualcosa da dirvi e dobbiamo decidere subito. Cosa c'è? Cosa è successo, signor Kraler? Ecco, io vorrei portarvi sempre buone notizie. Ma stando chiusi qui dentro, voi non potete sapere come si stanno mettendo male le cose là fuori. C'è un dentista ebreo, Alfred Dussel, che è sposato con una donna cristiana. Mi ha chiesto se conoscevo un posto sicuro dove potersi nascondere. È disperato. Io gli ho detto che gli avrei fatto sapere. Dussel, mi pare di conoscerlo. Comunque si tratta di una notte o due fino a che non troveremo un'altra sistemazione. Mi dovete scusare, ma è successo talmente così in fretta che io non sapevo a chi rivolgermi. E adesso dov'è? È giù in ufficio. Beh, fatelo salire. Va bene, allora vado a chiamarlo. Scusami, Mip, vieni anche tu così resti di guardia mentre faccio sì, salire il signor Vengo Tusson. Con te. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Grazie di tutto. Dovete scusarmi, io ho parlato senza consultarvi, ma mi auguro che siamo tutti d'accordo. Ma lei non deve consultare proprio nessuno, lei è il padrone di casa, può fare quello che vuole. L'unica cosa è che già abbiamo così poco da mangiare qua dentro e, capisce, una bocca in più da sfamare. Mangeremo un po' di meno, si tratta di qualche giorno. Speriamo. No, io, Otto, sono d'accordo ad ospitarlo. Hai pensato dove possiamo metterlo a dormire? Dove? Può dormire nel mio letto. Io dormirò per terra, a me non dà fastidio. Sei troppo generoso, Peter. La tua stanza è piccola e poi c'hai anche il gatto. Sì, infatti. Allora potrei dormire io con te e con la mamma. Così do il mio letto al signor Dussel. No, Anne. Dormirà Margot con noi. Perché? Perché così il signor Dussel potrà dormire nel letto di tua sorella. Non c'è altra soluzione. Mamma, ma perché non posso dormire io con voi? Ah, perché? Perché non sta bene che Margot dorma con un uomo, ecco. Non fare capricci, abbiamo deciso ormai, cara. Anne, non ti dispiace, vero, dividere la stanza col signor Dussel? No, papà, assolutamente. Bene, dov'è il cognac? Ah, è sotto il lavello, caro. Otto, però io avevo pensato di tenerlo da parte nel caso qualcuno di noi si sentisse male. Beh, mi pare che non ci sia un'occasione migliore. Peter, trovami 5 bicchieri. Benvenuto. Lui è il signor Otto Frank. Signor Frank, non so come ringraziarvi. No, non deve ringraziare me, ma il signor Thaler e la signorina... Oh, senza di loro non potresti assolutamente vivere. Prego, signor Dussel, si sieda, si accomodi qua. Sarà esausto, immagino. Mi dieta, cagli, io. Grazie, signor. Allora, signor Dussel, allora io le presento la signora Van Damme. Ben arrivato. Il signor Van Damme, Peter il loro figlio, le mie due figlie, la Anne, Margot e mia moglie, la signora Frank Dussel. Grazie signor Frank e grazie a tutti voi. Allora signor Dussel, la lascio in buone mani. Ah, mi scusi signor Dussel, il cappotto. Sì. Devo restituirla al proprietario, era solo per coprire la stella, mi perdoni. Sì, io non so come ringraziarla. Per favore, non c'è alcun bisogno. Allora buona serata a tutti. Ah, signor Frank, sì? Ma non vuole bere un goccino di cognac con noi? Sì. Grazie, come se avessi accettato, ma purtroppo l'ulcera ultimamente mi dà dei bei fastidi. Allora di nuovo. Arrivederci. Prego, signor Dussel, si sieda qua. Non credo ai miei occhi, mi sembra di sognare. Ma il signor Frank è qui. Sì. Io pensavo foste scappati in Svizzera. Una mia paziente è entrata a casa vostra, ha trovato la porta aperta, sì, tutto in disordine, perfino i piatti nell'acquario. Sì. Mi ha detto che ha trovato un foglietto di carta nel cestino con su scritto un indirizzo. Sì, ma un indirizzo di Zurigo. Io pensavo foste scappati in Svizzera. No, li abbiamo imbrogliati. Ma siete stati qui tutto questo tempo? Sì, siamo nascosti qui dal mese di luglio. Papà, lo sai che cosa dice il signor Dussel? Cioè? Dice che tutti credono che siamo scappati in Svizzera! Allora, facciamo un brindisi di benvenuto al signor Dussel. Otto, signor Dussel, ecco, voi ce l'avete, sì. Signor Dussel, lei è il benvenuto. Siamo molto onorati di averla qui con noi. Benvenuto, signor Dussel. Grazie. Signor Dussel. Molto buono. Sì. Lei ha detto il signor Kraler che qui abbiamo ben poco da mangiare, ma lei pensi che abbiamo soltanto 3 razioni per 7 e adesso in 8 lei capirà. Quando lei non si rende conto di quello che sta succedendo là fuori, mi scusi. Non ne ha contezza. Non c'è quasi più un ebreo ad Amsterdam. Li tirano fuori dai letti di notte. Dovreste sentire le grida. I bambini tornano da scuola, sì, non trovano più i loro genitori. Le donne tornano da fare la spesa, non trovano più i loro mariti. Scappare. Impossibile. A meno che non riesci a nasconderti da qualche parte. Ne stanno deportando a migliaia. I Bloombergs, il professor Alistair. Bloomberg? Sì. Ti danno 5 minuti per prendere le tue cose. Puoi portare con te solo quello che ti entra in uno zaino. Ti stipano nel teatro ebraico e ti ci lasciano per giorni. A volte per settimane. E poi Westerbork. Il campo di smistamento. Da lì ogni settimana, puntuale come un orologio, parte un treno verso est. Lei conosce i Deval? Sai, io e la loro figlia Jopi andavamo in classe insieme. Jopi è la mia migliore amica. Non li avranno presi, vero? No, no, non può essere. Jopi! Andate! So che sono in tanti a chiamarsi Wagner, ma lei sa qualcosa di quelli che abitano vicino a noi? Ah, signora Van Damme, forse è meglio parlare di queste cose più tardi. Adesso tutti quanti abbiamo tante domande da fare al signor Dussel. Io penso che il signor Dussel voglia sistemarsi prima di cena. Mi dispiace non poterle dare una camera tutta sua. Spero non si troverà troppo male. E abbiamo stabilito regole severe e orari precisi. Ma di questo ne parleremo tutti dopo cena. Bene, Anne, Anne, per favore, vuoi accompagnare il signor Dussel nella tua cameretta? Io chiedo scusa se non vi ho espresso la mia gratitudine, ma io non so nemmeno perché sono qui. Voglio dire, sì, sono un ebreo, ma non sono praticante. Io mi sono sempre considerato un olandese, basta. È stato un tale shock per me. Io sono nato in Olanda, mio padre è nato in Olanda, mio nonno è nato in Olanda. Sono sposato con una donna cristiana io. E adesso, dopo tutti questi anni, eccomi qui. Venga, da questa parte, signor Dussel. Eccoci qua. Sa, io non avevo mai condiviso la stanza con un uomo prima d'ora. Spero che ci troveremo bene insieme. No, no, no, no, questo è il mio letto. Quello è il suo letto. Senta, per quanto riguarda la stanza, con Margot eravamo organizzate così. Io ci stavo al mattino e lei al pomeriggio. Immagino che vada bene così anche per lei. No, no, no, no, io al mattino sono un po' fuori forma. No. Ah, bene. E allora potremmo fare al contrario, quindi lei ci starà al mattino e io al pomeriggio. Ah, dimmi, ma quando tu sei qui, ammetto che stare di là con tutti gli altri? Sì, e con Mushi. Mushi, chi è Mushi? Ma come chi è Mushi? Mushi è il gatto di Peter. Un gatto? Ma come un gatto? Nessuno mi ha parlato di gatti, ma dove lo tiene? No, no, no, no, vedrà, le piacerà. Sì, Mushi è il gatto più dolce del mondo. Io odio i gatti, mi fanno venire l'asma, non li sopporto. Ma lei non si deve preoccupare, Peter lo tiene sempre chiuso nella sua stanza. Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, io dovrei riposare un pochino adesso. Adesso è pomeriggio. Sì, lo so che è pomeriggio. E quindi la stanza toccherebbe a me. Ah, cara, no, ma io sono appena arrivato. Ah. Prego. Sì. Bene, per questa volta si riposi, sì, signor Dussel. Sì, sì, grazie. Lunedì 25 settembre 1942. Oggi è un mese che è arrivato il signor Dussel e sono 30 giorni che litighiamo. Sì, io e il signor Dussel abbiamo litigato di nuovo. Non c'è niente, e dico niente di me che gli vada bene. Né il mio fisico, né il mio carattere e neppure le mie maniere. Beh, forse lui è arrabbiato con me perché da quando è arrivato io di notte ho gli incubi e mi metto a urlare e spesso lo sveglio. Ma mentre prima lui insisteva, io pensavo tra me e me, un giorno o l'altro io gli do uno schiaffo così forte che lo faccio volare fin sopra il soffitto. Ma io dico, ma perché voi grandi siete convinti di sapere sempre tutto sui bambini? Soprattutto quelli che non ne hanno. Come vorrei che Peter fosse una femmina. Almeno avrei qualcuno con cui parlare. Sì, sì, Margot è un tesoro, però prende sempre tutto così sul serio. Per quanto riguarda i tentativi della signora Van Dan di sedurre papà, sono del tutto vani. Papà, per fortuna, non ci sta. Usciti di qui. La signora Van Dan non vede l'ora di tornare tra le sue cose, il meglio del meglio. Peter invece vorrebbe andare al cinema. Il signor Dussel non vede l'ora di tornare al suo trapano. Ha paura di perdere la mano. Margot vorrebbe andare a ballare e volteggiare per tutta la sala. La mamma vorrebbe una tazza di caffè, vero? Con lo zucchero e con tanta panna! Per quanto mi riguarda io vorrei tante di quelle cose. Vorrei andare di nuovo in bicicletta e poi vorrei tornare a scuola dai miei amici. Vorrei riempire una vasca piena d'acqua e sguazzarci dentro. Anche se a me basterebbe tornare a ridere, sì, a ridere a crepapelle, fino a farmi scoppiare la pancia. Barucata Adonai Eloen Melech HaOlam Asher Kideshan, be mitzvota, vezivan, adelik, nershel, kanuka. Amen. Amen. Amen. Davvero commovente. Ma non è ancora finito, ci sono ancora gli inni e i regali. Ah, i regali. Beh, mi sa sa che quest'anno purtroppo dovremmo farne a meno. Ma di solito tutti si scambiano regali per Hanukkah. Come per Natale. Ma no, no. Ma che ebreo è lei se non conosce la festa di Hanukkah? Oh, dunque, la festa di Hanukkah funziona così. È la festa delle candele. Se ne accende una la prima sera, come abbiamo fatto noi stasera, poi due la seconda, poi la sera successiva tre, finché sul candelabro ci sono tutte 8 le candele accese. Insomma, è una festa bellissima. E le frittelle di patate? I latkes! Io preparo dei latkes squisiti! Vabbè, allora signora Valdà ci deve promettere che il prossimo anno ci inviterà tutti quanti a casa sua a mangiarle. Se Dio vorrà. Se Dio vorrà. Quello che mi piaceva di più erano i regali che ricevevamo da bambina. 8 giorni di regali, ogni giorno più belli. Adesso noi siamo qui e siamo vivi. Ed è questo il vero regalo. No, io ho delle cose. Cosa? Regali! Oh, regali! Sì, regali! Le Haim! Oh, le Haim! Ma che cos'ha in testa? Ma è un paralume! Un paralume! Tieni, questo è per te. Lo leggo. Sì, ad alta voce. La pazienza non perdi mai e temo che mai la perderai. Troppo buona sei tu, ma se un dì non ne potrai più, con questo cruciverba ti sfogherai! Ah, ma è un cruciverba nuovo! No, non è nuovo, è vecchio! Lo avevi già fatto, però io ho cancellato tutto! Così se aspetti ancora un po' te ne dimentichi che potrai ricominciare da capo! È fantastico, Anne, grazie! Ecco, il prossimo regalo è per la signora Van Damme! Per me? Sì! Ma mi sento in imbarazzo e non ho preparato niente per nessuno, anche perché non avrei mai aspettato. L'idea è tutta di Anne, sì. Sei un tesoro, sì. Ma che cos'è? È shampoo! Ho preso tutti gli avanzi del sapone e l'ho mischiati con le ultime gocce dell'acqua di Colonia! Meraviglioso, grazie, sei stato un tesoro! Sì, ma io buonissimo, sei... volevo scrivere una poesia per tutti, però poi purtroppo non ho avuto tempo. Ecco qui, questo è per il signor Van Damme. Per me? Sì, è una cosa che desidera davvero, più di ogni altra cosa al mondo. E che cos'è? Avanti. Sigaretta! Sì, io e papà abbiamo trovato un po' di tabacco nelle tasche del cappotto e allora poi papà gliel'ha arrotolati. Però è tabacco vero, giuro. Avanti, avanti, lo provi? È buonissimo! Buono! Ma perché? Buonissimo! Ma grazie! Adesso lo leggo. Questo è un impegno che ti do come pegno. Per 10 ore Anne Frank farà tutto ciò che la mamma vorrà. Grazie, tesoro, ma sei un angelo. Per 10 ore farai tutto quello che ti si chiederà di fare. Sì. E me lo venderebbe, signora Frank? No, non lo venderei per nessuna cosa al mondo. Questo è il regalo più prezioso che potevo ricevere. Guardi, signora Van Damme. No. Ah, nel tesoro, ma io non dovevo ricevere regali. Cos'è? Ma guarda com'è bella. Bellissima. Questa è una sciarpa. È una sciarpa e va messa al collo. Sì, l'ho fatta con le mie mani. Con tutti gli avanzi della lana ho lavorato ogni notte al buio. Però forse al buio era un po' più bella. Ma no, è bellissima, tesoro, è bellissima. Anche il prossimo regalo l'ho fatto io con le mie mani. Tieni, questo è per Mushi. Per Mushi? Sì, l'ho fatto con i lacci delle mie scarpe. Come le tue scarpe, Anne? Tanto non mi stavano più. Beh, allora grazie tante. Anche da parte di Mushi. Sì. E invece questo è per te, da parte della signorina qua. Per me? Sì. Ho paura. Avanti, aprilo. Ma ci sarà sicuramente qualcosa che mi salterà in faccia. Ti sbagli di grosso. Dai, facci vedere. Apri. È un rasoio. Cosa? Un rasoio. Non avrei fatto anche questo con gli avanzi. Ma no, questo me l'ha preso Mip. Sì, non è nuovo, è di seconda mano. Però adesso ne ha bisogno. E per farci che cosa? Guardate qui, sopra il labbro gli stanno spuntando i baffi. Ah, quelli. Mettici un po' di latte, vedrai che sarà il tuo gatto a leccarteli via. Spiritoso. Guardatelo, non vede l'ora di provarlo. Sto andando a portare il regalo a Mushi. Mosci, mosci, mosci. Questo è il regalo per il mio compagno di stanza. Ah, un regalo per me? Sì, l'ho fatto io con le mie mani. Ah, vediamo. Due capsule. Non sarà veleno, spero. Ma no, sono tappi per le orecchie. Ah, tappi per le orecchie. Sì, così adesso non mi sente più la notte quando mi agito. Mm. Sì, non sono quelli autentici. Li ho visti su una rivista e li ho rifatti con la cera delle candele. Però magari funzionano. Mm. Avanti, li provi? Li infilo tutte e due. Sì. Ecco qua. È pronto? Eh? È pronto! Mi sono... Però, ecco, non riesco a levarli, Anna. Cioè, voglio dire, mi sono entrati nel cervello, ma che cosa... No, ma cos'è, che regalo è, Anna? Ma io sto scherzando! Grazie, il mio regalo mi è piaciuto tantissimo! L'ultima cosa! Cosa? Un regalo. Perché come me l'hai regalato? Per voi, ragazzi! È per vostra madre. Per me? Oh, ma... Il mio carillon, ma come hai fatto a portarmelo? Grazie. L'avevo messo da parte anche se speravo che non saremmo rimasti qua dentro rinchiusi fino al canucà per darselo. Ma guardate, ragazze, era della mia bisnonna, è bellissimo. Ma sei stato un angelo, tesoro, a ricordartele e a portarmelo qui, grazie. E tu perché non hai messo da parte niente di mio? Ho messo da parte te, no? Sentite, ragazzi, sentite che bella musica. Guardate, Mushi va matto per il suo regalo. Mushi, Mushi, mi fai venire l'asma con quel Mushi. Peter, porta via quel gatto. Gatto? Ma quale gatto? Non è il gatto, sono i peli del gatto nei suoi vestiti. Mi fanno venire l'asma. Ma non discutete, stasera è canucà. E a canucà bisogna festeggiare. Su, ragazze, cantate. Cantate. Mao Tzu Yashuati Le Hana e la Shabea Ti combeta filati De Shantu Dana Tzabea. Silenzio. Si sente niente? Forse se ne sono andati. No, no, sono le camicie verdi. Ci hanno scoperti. No, no, no. Se ci avessero scoperti, non se ne sarebbero andati. Sarebbero saliti qua. Forse era un ladro. Allora dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa subito prima che ritorni. Non possiamo fare niente. Io scendo a vedere. No, papà, potremmo esserci qualcuno. Torna. Putti, dove hai nascosto i soldi? Vai a prendere, possiamo corromperlo. Sì, vai, non stare lì in palato. Fai qualcosa. Zitta. Vado io. Non hai combinato già abbastanza guaito? Silenzio. Signor Van Damme. Signor Van Damme. La prego, vada a cercare mio padre. Sì, ma adesso silenzio tutti. Ero un ladro. Oh, che Dio sia ringraziato. Come fa a saperlo? Sono portati via la cassetta dei soldi alla radio. Poi si sono dimenticati anche di chiudere la porta. Si vede che il rumore l'ha spaventato. Beh, su, ora il pericolo è passato. Accendiamo le luci, su. Ma chi l'ha detto? Adesso siamo più in pericolo di prima. No, stia calmo, signor Fuggitore. Grazie a quel deficiente, ora c'è qualcuno che sa che ci nascondiamo qui. Qualcuno sa che ci nascondiamo qui, sì, è vero. Ma chi? Un ladro, solo un ladro. E lei pensa che un ladro possa andare nelle camicie verdi e dire ieri stavo rubando in un posto quando ho sentito dei rumori provenire dall'alto. Ma le pare possibile? Sì, penso proprio di sì. Ma lei è pazzo. Ma se quello l'arrestano, un giorno andrà dalle camicie verdi. E si farà rilasciare in cambio di qualche informazione sul nascondiglio degli ebrei. Ha ragione! Papà, andiamocene via di qua! Dove? Ma volete andare dove? No, non se ne va nessuno. Non facciamoci prendere dal panico, eh? Siamo sopravvissuti insieme qua per 6 mesi e andremo avanti insieme. Margot, Anne, è Hanukkah. Cantate. Tumbala, tumbala, tumbala, laica. Tumbala, tumbala, tumbala, laica. Tumbala, tumbala, tumbala, laica. Stella, ok, c'è di un tratto, un tratto, un tratto. Ma non so nemmeno come fare scena, ma non so nemmeno come fare scena. Tumbala, tumbala, tumbala, laica. Tumbala, tumbala, tumbala, laica. Tumbala, laica, schniva, laica, schniva, laica, frema, senza. Meita, meita, vega di frema, posso che ambasse, ambasse, che non prende la luce fede, lo spino non prende, non prende, non prende. Tumbala, tumbala, tumbala, tumbala, tumbala, laica. Tumbala, laica, schnibala, laica, schnibala, laica, frena il sonse. Sabato, 1° gennaio 1944. È passato un intero anno e noi ci troviamo sempre qui nel nostro nascondiglio. È passato esattamente un anno, 5 mesi e 25 giorni ed è come se le nostre vite fossero immobili. Siamo solo più magri, più pallidi e molto più affamati. Durante questo tempo ci siamo ammalati un po' tutti e siccome non potevamo chiamare un dottore, ci ha curati il nostro dentista, il signor Dussel. Purtroppo un membro della nostra famiglia ci ha lasciati. Sì, il gatto Mushi è scomparso. Le discussioni tra i signori Van Damme sono più violente che mai. La mamma non mi capisce. Forse anche io non capisco lei. Però ormai sono cresciuta. Non mi stanno più le scarpe e neppure tutto il resto. E c'è stato anche un altro cambiamento in me. Ho letto da qualche parte che le ragazze alla mia età diventano molto più calme. Tutte concentrate sul miracolo della trasformazione del loro corpo. Otto, bussano! È mi permette. Ma no, a quest'ora sì, non è il possibile. Suo segnale, mi... Assolutamente no. Che bello vederti, Mip. Profumi di vento. Vieni, Anne. Grazie. Mip, hai visto? Come ti senti? Un po' meglio, grazie. L'abbiamo imbottita di pillole per non farla tossire. Buon anno, signor Van Damme. Buon anno. Buon anno, signor Van Damme. Buon anno, signor Van Damme. Questi sono per lei con la speranza di un anno all'insegna della pace. Grazie, signor Van. Vediamo anno, come sta Margo. Allora? Ha trovato Mushi? Lo hanno visto da qualche parte? Mi spiace, Peter. Ho chiesto a tutti qua intorno se avevano visto un gatto grigio, ma hanno risposto di no. Guardate cosa ci ha portato Mip. Cos'è? Una sorpresa? Guarda qua, un attimo. No, una torta! Oh, Mip! Una torta! Vado subito a prendere i piatti, subito! Oh, ma Mip, ma non doveva disturbarsi, lei è un consumato la razione di zucchero di un mese intero. Ma è magnifica! Che profumo! Era un secolo che non vedevo una torta! Una torta. Ma com'è stata carina, Lippa! E guardate, c'è scritto pace per il 1944! L'anno scorso c'era scritto pace per il 1943. Beh, la pace dovrà tornare. Salve, signor Dussel. Come sta, signor Dussel? Buon anno. Ecco il coltello, quanti siamo? Io no, ah, grazie. No? Vabbè, no, allora siamo in otto. Bene, siamo sette. Otto, siamo in otto, come sempre. Ma io pensavo che Margot non la prendesse. Perché? Ma non può certo fargli male una fetta di torta, eh? Bene. Io ero solo preoccupato che non le riprendesse la tosse come ha fatto tutta la notte, tutto qui. Le fette le fa la signora Frank. Sì, sì, la signora Frank è più brava a fare le porzioni. Vuole dirmi che io non faccio sempre porzioni uguali per tutti? Sì, lei fa le porzioni uguali per tutti. Ma quelle per suo marito sono sempre un pochino più abbondanti. Come sarebbe a dire? Per favore, perdiamo la testa per una fetta di torta. È ridicolo. Signora Frank, le faccia lei le porzioni. Grazie. Prego. Mi è sicura di non volerne una fetta? No, grazie, devo proprio scappare. Che profumo! Ma magari Musce è tornata a casa nostra e dicono che i gatti lo fanno. Va mai da quelle parti? Pensa di poterci passare? Certo, ci andrò, ma è già passata una settimana e temo che... Mettiti il cuore in pace, a quest'ora qualcuno col tuo gatto si sarà preparato una buona cena. Ah, è squisita, Peter, è buonissima, mangia. È squisita, Peter. Dirk è veramente fortunato ad avere una ragazza come lei in grado di fare delle torte veramente fantastiche, squisite. Adesso devo proprio scappare. Questa sera Dirk mi porta ad una festa. Buona festa! Mi raccomando, ricordati tutti i particolari, così poi ce li racconti. Tutti quelli con cui balli. Con Dirk, solo con Dirk. Ah! Dimenticavo una cosa per qualcuno. Oh, per me, per me. Per me, no. Papà, per me. No, dai, faccelo vedere che sono impaziente. Ma no, ma dove li ho trovati? Si trovano più neanche le pantofole al mercato nero, brava. Eccola cresciuta pronta per Hollywood. Godite le Anne e stai tranquilla che domani ti racconto tutto. Signorina, lei mi può aspettare qua un momento? Devo chiederle un favore, solo un momento. Scusi, dove vai? Scusi, che cosa vuoi fare? Scusi, che cosa fai? Peter, che cosa succede? Cosa cerchi? Papà, non ti permettere! Vuole vendere la pelliccia di mamma. Putti, non ti permettere, è mia! Me l'ha regalata mio padre, non me l'hai data tu! È mia, non è il diritto! Dammela! Lascia! Soltanto una piccola discussione di famiglia. Sull'opportunità o meno di vendere questo cappotto. Io lo dico sempre a mia moglie, tu sei un egoista. Tenerti qua dentro questa pelliccia, quando là fuori c'è tanta gente che ne avrebbe bisogno per coprirsi. E poi non abbiamo più un soldo. Lei potrebbe aiutarci a venderla. Dovrebbe valere molti soldi. Aspetti, mi cerchi delle sigarette. La marca non ha importanza, tutte quelle che trova, tutte. Ci proverò, signor Van Damme. Sì. Sarà molto difficile, ma ci proverò. Arrivederci. L'accompagni. Arrivederci. L'accompagni. Ciao, mi. Grazie. Signora Frank, che succede? Niente. Solo che pensavo che prima Capodanno era una festa allegra, era un evento gioioso, invece adesso la vita... Signora Frank, non perda la speranza. Non c'è più speranza, mi. E io lo sapevo. L'ho capito la notte che Hitler è andato al potere. Quando io ho sentito alla radio la sua voce terribile che sbraitava, mi si è gelato il sangue nelle vene. Ma io mi domando, ma che cosa fa la regina d'Olanda? Cosa fanno gli inglesi? Niente! Ma nessuno che ha il coraggio nemmeno di pronunciare la parola ebreo, come se noi ebrei non esistessimo. Sono stati tutti quei treni che continuano a partire ogni giorno. Ma lo sanno tutti dove vanno. Allora perché non fanno qualcosa? Perché non bombardano le rotaie? Oh, mi scusi per lo sfogo, ma sa, con loro non posso parlare così, perché loro hanno dei progetti. Loro contano i giorni che mancano alla fine della guerra. Ma io penso che questa guerra non finirà mai, mai. E a volte io sono così stanca che vorrei lasciarmi andare. Signora Franca, non dica sciocchezze. C'è bisogno di lei qui. Soprattutto le ragazze hanno bisogno di lei. Ha ragione. Io dovrei vergognarmi di quello che dico. Perché per tutti è difficile, lo so. Oh, grazie. Grazie di avermi ascoltato. E avevo bisogno. Arrivederci. Arrivederci, signora Franca, e buon anno. Buon anno a te, Nipa. Buon anno. Ah, signor Kral, è sicuro di non volere una fetta di torta? Grazie. Come se avessi accettato. Grazie. Mi scusi, signor Franca, ho giù dei contratti. Le dispiace se gli diamo un'occhiata assieme? No, vengo, così chiudo. Grazie. Scusateci, torniamo subito. Ho giusto il tempo di scendere un attimo. Che cos'è successo, signor Kral? Non è successo nulla, stai tranquilla. Io volevo soltanto un parere da parte di tuo padre. Andiamo giù. No, è successo qualcosa, è vero? Se è una cosa che riguarda noi, dobbiamo saperla tutti. Ma ci sono i ragazzi, signor Franco. Appunto per questo. Chissà cosa si metterebbero in testa, si immaginerebbero cose peggiori della realtà. Va bene come preferisce. Si tratta di un magazziniere. Non so se lo ricorda. Carla. 50 anni circa, grosso, miope. È stato assunto poco prima che lei se ne andasse. Uno di Utrecht. Esatto, un paio di settimane fa ero in magazzino. Lui è entrato, ha chiuso la porta e ha detto: come sta il signor Frank? Che ne è stato di lui? E io gli ho risposto che avevo sentito dire che vi trovavate in Svizzera. Anche lui aveva sentito dire la stessa cosa, ma si domandava se io non ne sapessi di più. Io sul momento non gli ho dato grande importanza, ma poi l'altro ieri è successa una cosa strana. È venuto nel mio ufficio per portarmi delle fatture da firmare e mentre le controllavo ho alzato lo sguardo. E lui era là, in piedi davanti allo scaffale della libreria e lo osservava con molta attenzione e poi mi fa: ma non c'era una porta lì? Sì, mi sembra di ricordare che ci fosse una porta lì che saliva in soffitta. E poi mi ha chiesto un aumento di 20 fiorini la settimana. Un ricatto! 20 fiorini? Una cifra piuttosto modesta per un ricatto. È solo l'inizio. E lei cosa gli ha detto? Io gli ho detto che ci dovevo pensare. Ma che faccio? Lo pago? Trovo una scusa per licenziarlo? Io non so che fare. No, gli dia tutto quello che chiede. Sì. E non lo perda mai di vista. Provi a offrirne nella metà, così vediamo se è un ricatto o no. Sì, ma magari non sa niente, potrebbe essere soltanto frutto della mia immaginazione, ma purtroppo siamo arrivati a un punto in cui ormai si sospetta di tutto e di tutti sempre. Basta anche solo uno sguardo, una parola. Va bene, io gli offrirò la metà. Allora, arrivederci. E speriamo in bel... Arrivederci a tutti. Arrivederci. Può ringraziare suo figlio per tutto quello che è successo. Sì. Quando ha fatto cascare il barattolo. È solo questione di tempo. Ve lo dico io. Margo! Almeno sapremo la fine che ci aspetta! Margo, ma tu ti devi vergognare di parlare in questo modo. Noi siamo fortunati. Noi siamo nascosti qui, noi siamo vivi. Ma non pensi alle persone là fuori che muoiono nella guerra. Non pensi alle persone nei campi di concentramento, Margot. Mamma, ma che serve pensare alle miserie degli altri quando tu stesso sei un miserabile? È da stupidi. Guardaci, mamma. Peter, Margot, io, noi siamo giovani, mentre voi siete grandi e già l'avete vissuta la vostra vita. Se noi dovessimo pensare a tutte le cose orribili del mondo, mamma, saremmo perduti. Siamo qui dentro che tentiamo di aggrapparci a degli ideali, quando tutto, ideali, speranze, tutto si sta sgretolando. Non è colpa nostra se il mondo è ridotto così male. Noi non eravamo neppure nati quando è cominciato tutto questo. E perciò voi non potete prendervela con noi. Ale, ti prego, ascolta. Ma parla come se la guerra l'avessimo fatta scoppiare noi. Ma l'abbiamo dichiarata noi la guerra, eh? Non ha mangiato la sua torta. E io Non ho mangiato la mia. L'hai lasciata di là. Grazie. Sei stata bravissima prima. Sai bene come tenere testa agli adulti. Sai dire ciò che pensi. Io non ci riesco. Non riesco a pensare. Specie quando sono arrabbiato. Prima, quel Dussel, quando ha detto in Mushi che qualcuno se lo era mangiato, mi è venuta voglia di picchiarlo. Volevo dargliene tante, ma non me la sono sentita. Sai che ti sbagli su di me. Vedi, io non ne combino una giusta. Parlo sempre, esagero troppo e faccio del male a chi mi vuole bene. Ma non è vero, io ti trovo fantastica. Se non fosse per te, quello che voglio dire... Dici davvero, Peter? Beh, è quello che ho detto, no? Grazie! Sembra quasi una collezione. Sì, e scommetto che tu ne vorresti qualcuna per la tua stanza. Certo che tu sei fortunato ad avere una camera tutta tua. Io invece, quando loro cominciano a prendersela con me, non so dove rifugiarmi e devo restare sempre dove sono e ingoiare sempre tutto. Beh, prima però non gliene hai risparmiata nemmeno una. Eh sì, Peter, mi hanno fatto arrabbiare. E così tanto. Loro sono convinti di sapere sempre tutto su tutto, mentre noi stiamo ancora cercando di capire. Vedi, noi ci troviamo di fronte a dei problemi che nessuno ha mai avuto alla nostra età. E quando crediamo forse di averli risolti, ecco che capita qualcosa di nuovo e bam! Dobbiamo ricominciare da capo. Almeno hai tuo padre con cui parlare. Sì, però non c'è niente che possa sostituire la scuola, i coetanei, i miei amici. A te mancano molto gli amici. Sì, e non solamente quello. Certo che tra di noi c'è uno strano rapporto. È quasi un anno e mezzo che ci frequentiamo tutto il giorno e tutti i giorni, e questa è la prima volta che ci parliamo davvero. Però aiuta avere qualcuno con cui parlare, non trovi? Almeno ti puoi sfogare. Beh, tutte le volte che avrai bisogno di sfogarti, vieni pure da me. Ah, stai attento a quello che dici, eh? Perché io a volte accumulo talmente tanta rabbia che... Dai, stai in guardia! Ehi, Peter! A me sta bene ugualmente. Dici davvero, Peter? Beh, è quello che ho detto, no? Marzo 1944. Brutte notizie. Le persone da cui Mip aveva avuto le tessere di razionamento sono state arrestate e perciò noi abbiamo dovuto ridurre ulteriormente le nostre razioni. Abbiamo le pance così vuote che brontolano e fanno dei rumori strani, però tutti in chiave diversa. La chiave del signor Van Damme è bassa e profonda, come quella di un contrabbasso. La mia invece è così alta che sembra quasi un flauto. Ogni volta che ci sediamo a tavola per cena, sembriamo quasi un'orchestra che si sta accordando. E manca solo Toscanini con la sua bacchetta e potremmo suonare la cavalcata delle Valchirie. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sei brutta. Hai dei bellissimi occhi e sei molto vivace. Sei un po' vaga. Ragazze, posso entrare un momentino da voi? No. Sì, mamma, vieni pure. Anne tesoro, hai intenzione di andare di nuovo di sopra da Peter? Mm-hmm. Ah, ci sei stata altre volte oggi, no? Solamente due volte. Oh. Una volta per prendere il dizionario e poi per tre quarti d'ora prima di cena. E non hai paura di disturbarmi? No, mamma, so quello che faccio. Allora, tesoro, posso chiederti un piccolo favore? Mm-hmm. Potresti non chiudere la porta quando sali nella sua stanza? Ma mamma, ma mi sembri la signora Van Damme! Ma no! Io non sto insinuando che tu faccia assolutamente nulla di male, figurati. È solo che non voglio che tu, come dire, ti esponga delle critiche che potrebbero dare un'occasione in più alla signora Van Damme di essere, come dire, sgradevole con te, tesoro. Mamma, ecco. La signora Van Damme non ha bisogno di un'occasione in più per essere sgradevole con me. Ah, mi dispiace, ma io da Peter ci vado comunque. Va bene, come vuoi, tesoro. Ma alle 9 devi tornare di sotto in camera tua. Divertiti, cara. Ah, ancora un momentino, signor Dussel. Anne è quasi pronta. Anne, perché tu e Peter non vi mettete nella stanza grande a chiacchierare? Evitereste tutte queste noie. Lo sai che per la mamma non è facile ascoltare i commenti della signora Van Damme senza poter rispondere. E perché lei non le risponde a tono? Beh, non può mica continuare ad ingoiare sempre tutto, eh? Non la capisci per niente la mamma, tu, eh? Non è come te. Le discussioni non fanno parte della sua natura. Sai, a me l'unica persona che preoccupa per davvero sei tu. Io mi sento in colpa nei tuoi confronti. Ma in che senso? Ogni volta che io vado da Peter, a me sembra di farti un torto. Non so, io al posto tuo sarei furiosa, anzi sarei terribilmente gelosa. Io no, per niente. Davvero? Cioè, tu non sei gelosa? Certo che sono gelosa, Anne. Chi non vorrebbe qualcuno ad andare a trovare tutte le sere? Qualcuno con cui parlare. Magari chissà anche altro. Sì, sono gelosa. Ma non di te, di Peter. È solo che vorrei avere qualcuno per me. Sono contenta che tu ce l'abbia. Davvero? Ma certo. E voglio che tu stia bene stasera e tutte le sere a venire. Ti sei persa già così tanto, stando qua dentro. Oh, come sei generosa, Margot. E poi, forse, non c'è niente di cui essere gelosi. Vedi, io e lui non facciamo nulla di male e poi non mi ha neppure baciata. Beh, il bacio verrà. Ah, non sono neppure sicura di volerlo. Oh, sì, certo che lo vuoi, sei fatta così. Io ti conosco. Guardami. Cosa? Potete entrare nella mia stanza, per favore? Un attimo, caro signor Dussel. Ah, eccomi pronta ad attraversare il campo mio. Grazie. Prego. Grazie. Dio mio, guardatela. Una volta erano i ragazzi ad andar dietro alle ragazze. Eh sì, è vero, signora Van Damme. Una volta funzionava proprio così. Adesso lo sa anche lei, no? Che ai nostri ragazzi piace parlare dei loro piccoli segreti. E la stanza di Peter è l'unico posto dove possono farlo, mi pare. Parlare? Non si chiamava certo così quando ero ragazza io. Peter, ma li hai sentiti? Sono insopportabili. Ci trattano come se stessimo ancora all'asilo. Ma lasciali perdere. Fai come faccio io. Ah, che stupida. Mi sono dimenticata. Io volevo portarti delle altre fotografie. Grazie, ma quelle che ho mi bastano. Tu non ne vuoi delle altre? Forse sono. Più in là. Peter. A te piace Margot? Dalla prima volta che l'hai vista l'hai subito preferita a me. Ma io non lo so. Non... Ma no, guarda, è normale, vedi? Margot è così bella, è dolce, è simpatica, è tutto quello che non sono io. Ma qui ti sbagli. No, so benissimo di non essere bella. Non lo sono mai stata e mai lo sarò. Non sono per niente d'accordo. Io ti trovo carina invece. Non è vero. Sì, e poi... sei cambiata, voglio dire, Sei cambiata dai primi tempi. Davvero? Eri chiassosa. Ah. In che senso sono cambiata, Pepe? Beh, ecco, sei più calma. Scommetto che una volta che saremo usciti di qui tu ti dimenticherai di me. Sei matta? No, quando tornerai dai tuoi amici dirai chissà che cosa ci trovavo in quella signorina qua qua qua. Io non ho amici. Ma certo che ne hai, Peter. Tutti hanno degli amici. Io no, non li ho e non li voglio avere. Ah, e con questo tu vorresti dire che saresti meglio anche senza di me? Io mi consideravo una tua amica. No, no, se tutti fossero come te sarebbe diverso. Peter, hai mai baciato una ragazza? Sì, una volta. Ed era carina? Eh? La ragazza che hai baciato era carina? Non lo so. Ero a una festa e avevo gli occhi bendati. Facevamo uno di quei giochi con le penitenze. Ma allora non vale! Per me non vale. No, sai, no. Anche io sono stata baciata due volte così. Una volta mi ha dato un bacio sulla guancia un signore che non conoscevo perché ero caduta mentre stavo pattinando sul ghiaccio. Un'altra volta mi ha fatto il bacio a mano un collega di papà, ma non credo che neppure quello valga. Tu che dici? Penso proprio di no. Che poi io sono sicura che Margot non bacerebbe mai nessuno se non dopo essersi fidanzata. Cioè, io non lo so, al giorno d'oggi le cose sono così diverse. Secondo te, una ragazza deve aspettare di essersi fidanzata per poter baciare un ragazzo? Secondo me, dipende dalla ragazza. Ho sempre pensato che quando due persone... Sono le 9! Devo andare! Già! Buonanotte! Nessuno ti può impedire di venirmi a trovare, vero? No! Anzi, la prossima volta potrei portarti il mio diario! Così tante cose di cui vorrei parlarti. Verrà domani sera? Sì, sì, se vuoi sì. Sì, lo voglio. Beh, allora a domani. Papà! Papà! Cosa c'è? Buonanotte, papà! Buonanotte. Buonanotte. Margot, buonanotte. Buonanotte. Mamma, buonanotte. Buonanotte, tesoro. Signora Van Damme, buonanotte anche a lei. Buonanotte. Buonanotte, signor Custer. 30 aprile 1944. Abbiamo dovuto ridurre ancora le nostre razioni e per di più i topi si sono rimessi al lavoro portandoci via gran parte delle provviste. Splende il sole. Il cielo è di un azzurro intenso. Spira una magnifica brezza. Ed io desidero. Desidero tanto. Vago per la stanza, respiro dalla finestra rotta e sento il mio cuore battere. Vi devo confessare che io vivo solo nell'attesa del prossimo incontro. Non c'è niente di più bello che stare seduti sotto un lucernaio con un ragazzo adorabile tra le braccia. Sento rinascere la primavera dentro di me e mi attraversa l'anima, il corpo. Ed io sono confusa. Non so che cosa fare, non so che cosa leggere, non so neppure cosa scrivere. Sento solo... che desidero. Sì, desidero tanto. Oh, aspetta, accendi la luce. Che succede? I topi. Questo sì, ci sono i topi. Ci sono i topi. Alzati, occhi, i topi. Sono i topi. Non è possibile. Non posso crederci. Il pane. Stava rubando il pane, Otto, guarda! Porco ladro! Tutti, che succede? Rubare il pane buono a nulla che non è altro! Peter, aiutami, per favore! Lo lasci stare! Ingordo, egoista! Putti, cosa è successo? Il pane, suo marito stava rubando il pane! Signor Vanda, ma cosa stava facendo? Ho fame! Ho fame! Ho fame! Cosa? Lei ha fame! Ma abbiamo fame tutti quanti qui! Ma li ha visti, ragazzi, come sono magri? Io ho sentito suo figlio Peter lamentarsi nel sonno per la fame che ha. E lei ha il coraggio di venire di notte qua sotto a rubare il pane! Il pane dei nostri ragazzi! Ma lui ne ha bisogno! È abituato a mangiare di più lui! Lei si deve vergognare! Lei è peggio di lui! Ma che razza di madre è lei? Che sacrifica suo figlio Peter a favore di questo... ti prego! Ma cosa crede? Cosa crede? Che io non l'ho vista! Sempre a mettere da parte i pezzi migliori, più grandi per suo marito! Io l'ho osservata! Giorno dopo giorno! E non le ho mai detto niente, nemmeno una parola! Mi sono tenuta tutto dentro! Non ho mai aperto bocca io! Ma adesso basta! Non ce la faccio più! Questo è troppo! Voglio che lei se ne vada! Voglio che se esca di qui! Sto male! Andarmene, ma dove? Che cosa vuole dire? Quello che ho detto! Prenda la sua roba ed esca di qui! E dice poi di che? Ma ti rendi conto quello che stai dicendo? Otto, so esattamente quello che sto dicendo! Siamo tutti con i nervi a pezzi. Non succederà mai più. Vero, signor Van Dante, No, chi ruba una volta ruberà ancora! Via, non perdiamo la calma. Andiamo ognuno nella propria stanza, poi più tardi prenderemo una decisione. No, Otto, basta. Basta parlare. Voglio che se ne vadano adesso. Ci vuole mandare via, metterci in mezzo alla strada. Guardi che ci sono degli altri posti dove nascondersi. Sì, una cantina o magari un armadio. E per di più siamo rimasti senza soldi. Ah, non avete soldi? E il denaro ve lo do io, di tasca mia, e volentieri, sa? Per favore. Signor Frank, lei ha sempre detto che non avrebbe mai dimenticato quello che mio marito fece per voi quando arrivaste ad Amsterdam. Senta, se mio marito ha degli obblighi nei confronti del suo, sappia che mio marito li ha pagati, se li ha pagati e come? Non ti ho mai vista così, non ti riconosco più. Otto, io dovevo parlare di queste cose, ma tanto, sai, tanto tempo fa. Con certa gente le buone maniere non servono a niente. Ci sarebbe stato da mangiare abbastanza se non fosse arrivato lei. Non sono i nazisti che ci distruggono. Ci stiamo distruggendo con le nostre stesse mani. Prenda questi soldi. Li prenda e li dia a Mip. Così vi troverà un'altra sistemazione. Mamma, ma tu non vorrei mandare via anche Peter? Loro non hanno fatto niente di male. Ma cosa sto dicendo? No, Peter può restare. Quando io parlavo dei ragazzi, intendevo che poteva restare anche Peter. Ma io non posso rimanere qui senza mio padre. Ah, tuo padre? Quello lì non è più tuo padre. Quell'uomo lì non sa nemmeno cosa significhi essere padre. Ma non ce la farei a rimanere, non potrei mai. E allora fai come ti pare, Peter. Ma sappi che mi dispiace. Mi dispiace proprio tanto. Cosa sto dicendo? Peter! Mamma, loro si possono prendere anche il mio cibo. Io non me ne faccio niente del cibo. Però ti prego, non mandarli via adesso. Tra poco è l'alba e li prenderanno sicuramente. Mamma, ti prego. Io non ho mica detto che devono andare via adesso. Se ne andranno quando Mip li troverà un'altra sistemazione. Ma una condizione! Deve rimanere di sopra. Non deve mai più mettere piede in questa stanza dove ci sono le provviste. E poi divideremo quel poco che ci resta da mangiare in parti uguali. Ma cosa sto facendo? Signor Frank, Margot, Anne, signor Van Damme, signora Van Damme, non è vero. Peter? Non staremo litigando per un po' di patate marce, signor Dussel! Sono loro, sono Frank, signor Frank, Margot, Anne... Le sue patate! Basta. Non devono accorgersi di nulla. Margot, signora Van Damme, signor Van Damme, sì. Peter guardate, e io! Guardate, sta tenendo per voi tutto tutte le più grosse così. Signora Frank! Signora Duster, per favore, l'ho detto, per favore, basta un pochino! L'invasione! Avete sentito? È iniziata l'invasione! Dove? Sono sbarcati questa mattina presto in Normandia! Gli inglesi! Gli inglesi, gli americani, i francesi, tutti! Più di 4.000 navi! Ha parlato Churchill e anche il generale Eisenhower l'hanno chiamato il D-Day! Signori, signori, tra mezz'ora saranno quindi impiegati, noi dobbiamo scendere. Sì, ci vediamo appena siete maturi. A D-Day! Ecco, tutti, che succede? Mi vergogno. Mi vergogno così tanto. Per l'amor di Dio! Non ha più importanza ormai! Ma tutti voti l'invasione! Saremo liberi presto, tutti, dai! Su, signor Van Damme, su, signor Van Damme! È iniziata l'invasione, presto saremo liberati! Brindiamo, brindiamo! Ha rubato il potere, ragazzi! Ma no, signor Dusse, la prego, non faccia così, non faccia così! Qui tutti quanti abbiamo qualcosa di cui vergognarci! Mamma! Io ti ho trattata così male. Ma no, tesoro, Annelie, non è vero. Sì, sono stata crudele. No, ma nessuno è stato crudele quanto me. Basta, basta, un po' di allegria. Brindiamo! Le hai! Le hai! Mamma, ma perché? Ma se penso alle cose terribili che ho detto. No, signora Frank, lei aveva tutto il diritto di dire quello che ha detto. Ma no, parlare così a un amico, a un ospite terribile, io ho detto una cosa orrenda e terribile. Ecco, ecco come siamo diventati. E basta, basta, mi state rovinando l'invasione. Cantiamo! Cantiamo! Cantiamo! Gang, gang, gang, chile! Bebe, be, samantè! No, no, no, irara, chi ha mai mani, gam, gam, gam, chile, bebe, bebe, samalbe, no, no, no, irara, chi ha mai mani. Mercoledì 4 luglio 1944. L'invasione sembra essersi momentaneamente arenata. E per di più, gli uomini della Gestapo hanno ritrovato la radio rubata. Il signor Dussel dice che presto risaliranno al ladro e poi a noi. È solo questione di tempo. Il telefono. Otto. Eccolo che squilla di nuovo, signor Frank, lo sente? Sì, lo sento, lo sento. È la terza volta che squilla, signor Frank, la terza volta in successione! Deve essere successo qualcosa. È Nip che cerca di avvertirci. Per qualche motivo non riesce a raggiungerci e sta cercando di comunicarci qualcosa. Per favore, signor Dusse, Fiato sprecato. No, fiato. No, no, è successo qualcosa. Sono già 3 giorni che Nip non si fa vedere. Oggi non si è presentato nemmeno un impiegato. Non vola una mosca qua sotto. Ma no, forse oggi è domenica, ecco. Oh, forse abbiamo perso la cognizione del tempo. Tu, sempre con quel diario. Dai, che data è oggi? Io non perdo mai la cognizione del tempo. Io so esattamente che giorno è oggi. Oggi è venerdì, venerdì, venerdì. Venerdì 4 agosto. E non si è presentato nemmeno un impiegato. Non vola una mosca. È logica, deve essere successo qualcosa. E Mip sta cercando di avvertirci. No, non lo farebbe per telefono. La prego, risponda, la supplico. No. Signor Frank, alzi la cornetta. Non deve rispondere, deve solo sentire se è Mip. Ma per l'amor di Dio, risponda. No. Non farò niente che possa rivelare la nostra presenza in questo edificio. Il signor Frank ha ragione! Non serve che tu ci dica da che parte stai! Stiamo calmi e sereni. Qualcuno ci verrà in aiuto. Basta, io vado a vedere! No, no, no! Troppo tardi. Ecco, adesso non ci resta che rimanere qui e aspettare di morire! No, no, io non ce la faccio! Io mi ammazzo! Mi ammazzo! Beh, Marella, per l'amor di Dio! Saresti contento, tu, eh? Mi vuoi morta, tu! Ma di chi è la colpa se ci troviamo qui, eh? Adesso potevamo stare, che ne so, in Svizzera, in America, e invece no! No! Perché quando l'ho detto io, tu non sei voluta partire! Stare! Non sei voluta partire perché hai preferito rimanere vicino ai tuoi tesori! Ai tuoi pazienti morti! Basta! Guarda il cielo, Peter. Che bella giornata. Non trovi che le nuvole siano bellissime? Sai a che cosa penso quando credo di non farcela più? Mi penso fuori. Mi penso al parco dove mi portava papà. E sai qual è il bello di quando ti pensi fuori? È che puoi immaginartelo come vuoi. Io non riesco più a pensare. Guardaci. Siamo nascosti qui dentro. Da 2 anni. Senza poterci muovere. Intrappolati. In attesa che vengano a prenderci. E tutto questo per cosa? Noi non siamo gli unici a soffrire. C'è sempre qualcuno che soffre. Questo non mi fa sentire meglio. Io voglio vedere qualcosa oggi. Non tra 1000 anni. Lo so, è terribile. Però, sai che cosa credo? Credo che il mondo stia solo attraversando una fase, come è successo a me con la mamma. E che passerà. Sì, magari tra 1000 anni. Ma passerà. Malgrado tutto, io credo ancora all'intima bontà dell'uomo. Con Carlo Emilio Lerici, regista dello spettacolo Il diario di Anne Frank, in scena al Teatro Belli dal 21 al 23 gennaio 2022, ben trovato. Ecco, ben trovato anche a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, si riparte. Uno spettacolo che avevate riportato in Italia dopo tanti anni, nel 2020, poi nel 2021 e ora. Sì, il 2020 riportato in scena con un grande successo, era un progetto pensato e voluto da Antonio Salines, che era il fondatore del Teatro Belli, direttore della compagnia, che ci ha lasciato l'estate scorsa, e lui ci teneva molto a questo spettacolo, dove ne era protagonista nel ruolo di Otto Frank, e quindi in qualche modo riportato in scena quest'anno vuole essere per noi un omaggio anche a lui, alla sua determinazione, alla sua idea, che comunque il diario di Anne Frank è diventato uno spettacolo con un suo significato, una sua urgenza in un'epoca così strana come quella che stiamo vivendo. E quindi ritorniamo in scena adesso, 21, 22, 23 gennaio, in realtà non solo questi tre giorni, è un esperimento strano, un po' dovuto alla situazione appunto particolare, perché la stagione del Teatro Belli era rimasta vuota perché le compagnie hanno annullato gli spettacoli in cartellone, quindi noi abbiamo messo questo diario di Anna Frank, che sarà in serale 21, 22, 23 gennaio, ma a disposizione delle scuole sino al 28 di febbraio in matinée, quindi uno spettacolo on demand dal vivo, e sarà disponibile anche in streaming, sarà disponibile anche in radio, e quindi in tutte le formule si può vedere o ascoltare questo spettacolo. Poi probabilmente alla fine di febbraio, se le cose si mettessero meglio dal punto di vista della pandemia, pensiamo di rimetterlo in serale per un'altra settimana, dal 22 al 27 febbraio, però diciamo che si naviga a vista, quindi è un esperimento nuovo di una modalità di fare teatro. Da una drammaturgia che fu anche premio Pulitzer nel 1956. Sì, il testo ha vinto un premio importante perché è scritto in una maniera impeccabile. Come regista ho fatto poca fatica a metterlo in scena perché è tutto scritto, è tutto indicato, è un meccanismo perfetto e quindi si tratta solo di riuscire a trovare gli attori giusti. Ecco, io di questo sono contentissimo perché ho trovato una compagnia straordinaria con degli attori, Raffaele Alterio che interpreta Anne Frank, è straordinaria, Ruben Rigillo che interpreta il ruolo di Otto Frank, Francesca Bianco, Beatrice Coppolino, Vinicio Argiroto, Nino Tosto, Susi Sergiacomo, Fabrizio Bordignone e Roberto Baldassari, una compagnia di 10 attori, una cosa impensabile per lo sforzo per mettere in scena un progetto del genere, ma devo dire che siamo tutti a testa bassa contenti di andare in scena. Un lungo piano sequenza, 4 spazi, come si svolge il racconto per chi ci ascolta? Inizia con Otto Frank che rientra nella soffitta dove hanno vissuto per 2 anni nascosti. Lo spazio scenico è diviso su 2 piani e in 4 spazi che sono visibili contemporaneamente, quindi quando succede qualcosa sotto si può vedere anche cosa succede sopra, e riguardandosi attorno e ritrova il diario, inizia a leggere queste pagine del diario e da lì entra Anne Frank e ci troviamo trascinati al 42, il giorno in cui entrano dentro al rifugio, e dopodiché si arriva fino all'ultimo tragico giorno in cui vengono scoperti e poi deportati. La bellezza del testo è quella appunto di mostrare gli attori sempre in scena, non escono mai, perché la scena è lo spazio dove hanno vissuto. In realtà le dimensioni del palcoscenico del Teatro Belli, con questa scenografia su 2 piani, sono di circa 40 metri quadri, 42 metri quadri, che presso a poco era la dimensione dello spazio dove hanno vissuto realmente la famiglia Frank, i Van Dan e il dentista Dussel. Quindi si vede in scena esattamente quello che poteva essere uno spazio, le dimensioni reali dove hanno vissuto veramente. Questo credo che sia abbastanza inquietante. Per tutte le informazioni, i riferimenti web sono il sito internet e la pagina Facebook del Teatro Belli. Sì, nel sito internet www.teatrobelli.it, la pagina Facebook Teatro Belli, e ripeto, lo spettacolo è visibile dal vivo e in streaming e per radio. Il diario di Anne Frank dal 21 al 23 gennaio 2022, un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Emilio Lerici. Un abbraccio e a presto! A presto, grazie! Siamo all'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro, ma poi anche tutti gli eventi culturali più in generale. Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentrovati su queste meravigliose frequenze che ci ospitano da un sacco di tempo. No, lo dico perché pochi giorni fa qualcuno mi ha detto: ma fai il programma su Radio Onda Rossa, ma t'ho ascoltato, ma che bello, non sapevo che fossi tu. No, ci siamo conosciuti di recente ed è comunque un motivo di soddisfazione, di grande orgoglio ogni volta che qualcuno se ne accorga, no? Nelle varie cose che uno fa, un fiore all'occhiello, come si dice, quindi mi fa piacere poterlo segnalare, o che emerga da sé. Ho ascoltato la trasmissione con riferimento alla nostra Anna Frank e curiosamente proprio ieri ho appreso una notizia importante in merito, dopo che una squadra di investigatori internazionali, cioè con agenti dell'FBI in pensione, da anni stava indagando sulla vicenda di Anna Frank e si è scoperto un fatto importante, ovvero sia finalmente i documenti rintracciati hanno evidenziato la responsabilità di un notaio ebreo, tra l'altro Arnold van der Berg, che è colui che è responsabile di aver tradito in Amsterdam la famiglia di Anna Frank, consegnandola alla Gestapo, di aver rivelato una nicchia ricavata in questo edificio di Amsterdam dove la famiglia si nascondeva durante la persecuzione. Ed è un caso particolare, no? Che dopo 80 anni ci sia un'indagine attorno a questa cosa, un cold case, diciamo, un caso freddo che ritorna agli onori della cronaca, e quindi faceva piacere segnalarlo. Per il resto noi a teatro certo che ci andiamo con molto piacere, sicuramente ancora abbiamo una settimana per vedere al Teatro India Darwin Inconsolabile di Lucia Calamaro e al Teatro Argentina invece per Piazza degli Eroi. Ma non è la sola cosa che possiamo vedere al Teatro di Roma questa settimana, perché abbiamo il Teatro Torlonia, dove maggiormente vengono fatti gli spettacoli per le nuove generazioni, ed ecco lì Sonia e Alfredo, Un posto dove stare, la regia di Fabrizio Montecchi, lo spettacolo con delle sagome realizzate appositamente. L'opera è quella di Catherine Pigneur con Denise Azari e Tiziano Ferrari, ed è un lavoro molto particolare attraverso l'evidenza di un buffo strano uccello che non si sa bene da dove viene, che cosa sia, sembra non abbia più una casa. Se posso per me, chiede mentre cerca un luogo dove stare, ma tutti gli dicono di no. Cosa accade quando invece incontra Sonia, che in qualche modo lo accoglierà? Questo è il tema di Sonia Alfredo, Un posto dove stare, 22-23 gennaio al Teatro Torlonia. Mentre invece al Teatro Carrozzerie Not, 21-23 gennaio, per vedere Teatro di Lina con Il bambino dalle orecchie grandi, questo nuovo lavoro della compagnia diretto e scritto da Francesco Lagi con Anna Bellato, Leonardo Maddalena, e c'è una coppia, un uomo e una donna si sono appena conosciuti, due persone che si avviano a stare insieme un po' incerte tra il presente e il passato che sicuramente li ha portati fino a quel momento. C'è un nuovo amore, ma chissà, anche qualcosa di stranamente già vissuto. È questo il richiamo che ci porta allo spettacolo che dal 21 al 23 gennaio sarà al Teatro Carrozzerie Not, Il bambino dalle orecchie grandi di Teatro di Lina. Andiamo ancora a vedere quello che ci offre il Teatro Biblioteca Quarticciolo, che questo weekend ci porta nella danza, precisamente nella Prima Nazionale, in collaborazione con l'ambasciata di Israele in Italia, la coreografia di Roni Chadash, che si chiama Body Number One, ed è un lavoro che esplora le relazioni tra due corpi diversi che emergono nell'unisono. Ci sono due performer sulla scena e trovano delle strategie per muoversi come un organismo tentacolare. Il tema è quello dell'altra metà nella lettura dell'amore di Platone, che cerca di dare una ragione all'infinito desiderio umano di un legame. Poi a seguire ci sarà First Things The First, la coreografia di Michael Getzman con Ariel Gilbert, che è performer, e un mondo in cui non c'è distanza tra il reale e il modo in cui lo conosciamo, il modo in cui ne parleremo. Ecco, c'è da immaginare, quindi questo piano, questo doppio piano tra realtà e immaginazione, quello che vedremo in First Things, appunto, e a seguire rispetto a Body Number One, saranno in scena 22 e 23 gennaio a partire dalle ore 17, entrambi comunque lavori di artisti israeliani. Ci segnalano anche al Teatro dello Spazio Io non sono gran turco di Antonio Mocciola, con la regia di Giorgia Filanti, nell'anno che ha cambiato la storia del mondo, il 2001, si svolge il dramma di Hassan Shafei, 30 anni, finito nel mirino dell'FBI per sospetto collaborazionismo con Al-Qaeda dopo le stragi dell'11 settembre e che finirà nel carcere preventivo di Guantanamo. Questo è il contesto in cui si muoverà lo spettacolo. Egli sperimenterà le torture degradanti per tirar fuori la verità. È molto simile a quelli che subivano gli eretici, le streghe nei secoli passati. Questo lavoro, appunto, quindi ha a che fare con un teatro civile che cerca di evidenziare le storture e le torture in realtà di questo mondo e il tema mai decaduto dei diritti umani. Tutto ciò dal 20 al 23 gennaio, Giorgia Filanti al Teatro Lo Spazio. Mentre invece al Teatro Fortezza Est, Bernardo Casertano presenta il proprio Caligola a solo numero 1 dal 20 al 22 gennaio. È un lavoro appunto che prende le mosse dal testo di Camus, appunto Caligola. È un processo di lavoro iniziato su Caligola e ora si completa cercando di spostare l'obiettivo dal Caligola originale di Camus. Un animale come attraverserebbe la scena? Tante voci, ci dice Bernardo Casertano, a farsi vivi attraverso la coscienza di un solo uomo. È un percorso, quello dell'artista, che attraversa il pensiero di Camus sull'assurdo e sulla condizione umana. Questo è quanto vedremo appunto al Teatro della Fortezza Est dal 20 al 22 gennaio. Caligola a solo numero 1 di Bernardo Casertano. Ancora dal 20 gennaio al Teatro dei Servi, Control Z, Indietro di una mossa, questo spettacolo scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito, presenta una situazione abbastanza classica che però pone una domanda. Che cosa succederebbe se si potesse spingere il tasto Control Z nella propria vita invece che solo sul proprio computer? Cioè se si potesse tornare indietro cancellando quello che è il rapporto tra le scelte e ciò che succede nella nostra esistenza. Quindi dal 20 gennaio fino al 6 febbraio Control Z, Indietro di una mossa al Teatro dei Servi. Teatro Vittoria per uno spettacolo che è anche un concerto dal vivo su Clara Schumann, La pianista perfetta, regia di Maurizio Scavarro, il testo di Giuseppe Manfridi, in scena insieme a Lorenzo Manfridi, chissà, forse parente. Ci sarà Gwenda Goria, appunto nei panni di Clara Schumann. La mia immaginazione non può figurarsi una felicità più bella di continuare a vivere per l'arte, così Clara Schumann descrive la sua vocazione profonda per la musica, e questo andremo a vederlo fino al 23 gennaio a partire da questa sera dal 18 al Teatro Vittoria. Mentre invece 22 e 23 di gennaio torna Aristotele Bermuda con Luisa Merloni all'Angelo Mai, uno spettacolo sui grandi cambiamenti, le grandi sfide che abbiamo di fronte, sulla salute, sul clima, l'ossessione per le sopracciglia, chissà, sono sullo stesso piano. Che cosa succederebbe se incontrassimo Aristotele in metropolitana? Un monologo solo comico di Luisa Merloni, 22-23 di gennaio, Teatro Angelo Mai. E con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.